sulla questione della sicurezza, nello specifico del pacchetto sicurezza, gli occupanti delle case che ormai da alcuni anni sono soprattutto immigrati e immigrate, si sono sentiti direttamente chiamati in causa a scendere proprio in piazza per dare anche la loro voce su quello che sta accadendo rispetto all'approvazione del pacchetto sicurezza. Su questa cosa vorrei, ne abbiamo già parlato anche in radio, all'interno del coordinamento cittadini Lotta per la Casa si è formato questo gruppo inchiesta composto da non solo da occupanti del coordinamento ma anche da compagni e compagne che per motivi di studio ma anche di lavoro o per semplice così militanza hanno, si sentono come dire, vicini alle questioni che riguardano l'immigrazione e l'immigrazione in generale. E oggi abbiamo distribuito proprio come gruppo inchiesta un vademecum, un manuale su come resistere in qualche modo a questo pacco sicurezza, come l'abbiamo chiamato, con alcune semplici regole, insomma, su come comportarsi in caso di fermo di polizia piuttosto che altre situazioni. E poi ovviamente con una spiegazione di quello che sta cambiando nella condizione proprio del migrante rispetto al pacchetto sicurezza, e quindi l'approvazione ad esempio della possibile approvazione del reato di clandestinità, che come sapranno anche gli ascoltatori e le ascoltatrici in questi giorni si dibatte molto, oppure ancora più grave perché incide direttamente sulla vita quotidiana di chi è immigrato, le regole che riguardano il money transfer e l'obbligo di denuncia nel caso ci si rechi in ospedali e in strutture pubbliche per farsi curare. Sono tutta una serie di situazioni che l'immigrato può quotidianamente incontrare e che è necessario conoscere per potersi difendere al meglio, insomma, una forma di autotutela. Ci sembrava giusto, insomma, utilizzare una forma scritta anche molto semplice, grafica sul piano grafico, e abbiamo pensato di distribuirlo oggi anche perché, appunto, come giustamente dici tu, la partecipazione degli immigrati è molto forte. Senti, ma oltre agli immigrati delle occupazioni, per intenderci, ci sono anche associazioni di immigrati, altre realtà che hanno deciso di scendere in piazza con noi? Sì, ci sono altre associazioni, io ne posso raccontare anche una. Purtroppo in questo momento mi dispiace perché vorrei farvi parlare con qualcuno di loro, però potremmo fare un collegamento più tardi. Certo. Si è creata questa rete che si chiama Libertà di Movimento, che è partita da una serie di gruppi che organizzavano le classi di italiano nelle occupazioni, ma non solo, ad esempio le classi di italiano anche alla SNIA, all'ex SNIA, e che si sta muovendo proprio dello sganciare, diciamo così, il diritto dell'immigrato come condizione di vita, e quindi per quello che riguarda il permesso di soggiorno oppure tutti i ricongiungimenti familiari, e cominciare a fare un ragionamento anche rispetto a quello che significa essere un lavoratore immigrato, quindi tutto ciò che riguarda una condizione di vita più in generale.